Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ebbene sì, dovremmo festeggiare perché siamo arrivati all'appuntamento numero 370 del soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo. E a volte ritornano, eccola qui in tutto il suo splendore, in tre dimensioni, devo dire solare come sempre, con un bellissimo sorriso, forse perché ha ultimato anche questa operazione cinematografica che stava seguendo. Vado a introdurvi Madame Messier, Silvia Barba. A volte ritornano. Che come bello. Stai? Molto bene, adesso benissimo perché sono di nuovo qua, davvero mi siete mancati molto. Io, guarda, sono felicissimo perché finalmente non vedo più quella faccia barbuta di Francesco Tromba, che oggi è assente perché è impegnato in altre faccende. Naturalmente avrai capito che è diventato anche lui una piccola star multimediale. Ho visto. Si cimenta fra radio, televisione e tante altre cose, quindi oggi lo abbiamo liberato, ma sono contento di avere tempo per farmi raccontare qualcosa da te. Bene, io sono di nuovo qua, finalmente, dopo un'avventura particolare. Il mio lavoro di coordinatrice di produzione è terminato per un film internazionale. Ho lavorato e faticato tanto insieme ad uno staff davvero simpatico e generoso, ma comunque un lavoro abbastanza faticoso. Ma dimmi una cosa, una produzione internazionale realizzata in Italia, a Roma? Tra l'Italia, il Belgio e la Germania. Ma tu hai girato? Sì. Mi sono occupata prettamente della parte italiana, però ero in contatto sicuramente con quella belga, e quando loro si sono trasferiti io ero reperibile a qualsiasi ora del giorno e della notte. Senti, dimmi una cosa, produzione internazionale, quindi sì, nel senso che il producer, c'è cioè una coproduzione. Sì. Quanto è stato difficile o quanto è difficile realizzare un'opera cinematografica, che è un'operazione molto complessa, in un paese come il nostro, in una città difficile come Roma? È stato molto difficile, questo lo devi chiedere soprattutto ai producer italiani, che per reperire soldi e tempo e disponibilità comunque hanno faticato molto. È un lavoro che poi si avvale fortunatamente di, appunto, collaborazioni internazionali, ma diciamo la maggior parte del lavoro è stato svolto in Italia e di responsabilità italiana. È un film a low budget, comunque non è una produzione di quelle con milioni e milioni di euro. Beh, però i film low budget sono quelli che sono i più faticosi certamente, ma anche quelli che danno più soddisfazione a volte, perché se hai successo con quel film sei uno forte. Poi era un film musicale, perché è un film che tratta la vita, gli ultimi anni di vita di Nico, la cantante dei Velvet Underground. Ah, quindi interessante. Sì, sì, bello. Bello, bello. Bene, Silvia Barba è tornata qui al Soundcheck di Radio 24 in una puntata piena di musica. Oggi vorrei in qualche modo affrontare come argomento l'importanza dei bravi maestri. Cioè, quanto è importante avere un bravo maestro, non solo nella musica, ma in generale. Quali sono i bravi maestri? E quindi vorrei partire proprio con te per sapere se tu ne hai avuti di bravi maestri, dalla scuola, ma anche a casa, no? Beh, sicuramente a casa. Avere un buon esempio, anche perché definiamo cos'è il bravo maestro. Un bravo maestro è colui che non ti indirizza più che ti dà delle indicazioni precise. È qualcuno che sa riconoscere un talento, è qualcuno che valorizza le tue capacità e appunto le rende visibili ai più. È uno che si accorge prima del tempo di qualcosa che è nascosto in noi e che invece ci può valorizzare. Quindi i bravi maestri nel mio caso sono stati sicuramente i miei genitori. Senz'altro anche per me. Sono stato educato a un certo tipo di disciplina o autodisciplina. Beh, quello è importante, sì, sì. Anche all'autonomia, se vuoi. Perché mia madre è stata molto, molto tosta, una specie di sergente maggiore dei Marines quando eravamo ragazzini in una città anche difficile e complessa come Foggia allora, ancora oggi è una città bizzarra e molto funky, ma allora era molto difficile. Però questo quindi ti ha reso un uomo... un uomo migliore. Certo. No, non lo so, però insomma mi ricordo è stata dura con mamma, non lasciava, non le sfuggiva nulla, non faceva passare niente. Però oggi le sei riconoscente, come sei riconoscente ai bravi maestri. Senz'altro, ma parleremo di questo al soundcheck. Oggi io direi però di andare subito alla musica, mia cara Silvia, andandoci a gustare qualcosa dal nuovo album di John Legend. Io ho visto proprio l'anteprima in una puntata del mio programma televisivo preferito, che è quello di Jimmy Fallon, il Tonight Show di Jimmy Fallon, e John Legend si fece una bella suonata con i Roots, visto che si trovavano lì, e in questo brano c'è anche un altro campione contemporaneo che vedrai che bottino farà i Grammy Award, 7 nomination anche per Chance the Rapper insieme a John Legend, in Penthouse Floor qui al Soundcheck di Radio 24. Darkness and Light, il titolo del nuovo album di un campione della black music ormai da diversi anni, John Legend, qui al soundcheck di Radio 24. Un artista completo, se la suona se la canta, anzi la sua carriera è nata proprio come compositore per le grandi voci della black music. Poi a un certo punto alcuni discografici si sono accorti che come cantava lui i suoi provini poi non li cantavano i vocalist, e allora lì è nata poi la carriera anche di artista. È un personaggio molto simpatico, tra l'altro non solo ha vinto vari Grammy Awards ma anche un Oscar condiviso con un altro campione della black music che è Common. Direi allora, cara Silvia, noi sei tornata, non so oggi se devo considerarti una mia ospite visto che da un po' sei assente. Dai, ti considero la special guest del soundcheck di oggi. Mi piace. Bene? Allora direi di ascoltare ancora qualcosa e poi entriamo subito in argomento per parlare dei bravi maestri. John Legend qui al soundcheck con Marching Into the Dark. Soundcheck, il suono della musica. Beh, sì, che penso sempre che quando poi si deve presentare un album bisogna far ascoltare forse più di una traccia. Album, questi sono i tre brani che mi sono piaciuti di più di Darkness and Light di John Legend, ovvero abbiamo ascoltato Penthouse Floor, Marching Into the Dark e qui era Love Me Now. Devo dire molto carino, una grandissima produzione per John Legend. Qualcuno, per esempio il Tromba, in persona mi ha detto l'album non mi è piaciuto per niente, però io ho selezionato invece i tre brani che in qualche modo mi hanno fatto venire il brivido. Si sta montando la testa il Tromba. Il Tromba. Lo possiamo dire adesso che non c'è. Dal primo giorno io ho scoperto che era estremamente critico. Ma lui lo fa perché proprio gli piace esserlo, però su John Legend devo dire anch'io sono d'accordo con te, a me il disco è piaciuto, è godibile. Beh, intanto è una produzione infinita, si sente che sono stati spesi bei soldi, perché i dischi si possono produrre in due modi: con intelligenza quando non hai un grande budget oppure sfruttando al massimo il potenziale. Quindi qui abbiamo una grande voce, un compositore eccellente, studi di registrazione infiniti e tutti i soldi che servono poi anche per promuoverlo, un album da realizzare una copertina a tutto il resto. È vero? Però lo meritava lui, perché dopo l'Oscar insomma ci si aspettava da lui una produzione ricca e così è stato. E così è stato. Certamente non potrà partecipare ai Grammy Award di quest'anno, perché per partecipare ai Grammy Award bisogna avere un album pubblicato prima della fine del mese di settembre. Quindi diversi album che noi abbiamo presentato qui al Soundcheck non li vedremo in lizza. Ma ne parliamo l'anno prossimo. Non hanno avuto neanche la nomination che invece ha avuto Chance the Rapper, e staremo a vedere. Io sono curiosissimo di vedere che cosa combinerà. Anche Anderson .Paak ha avuto una Ma quanti nomination ne abbiamo passati noi prima che se ne accorgesse anche il grande pubblico? In qualche modo anche noi con grandissima umiltà diamo delle lezioni fra virgolette, siamo dei bravi maestri, abbiamo aperto dei sentieri, perché un certo tipo di sonorità nel nostro paese e su certi network assolutamente non si ascoltano. E noi abbiamo avuto più tu, devo dire adesso la verità, perché adesso io parlo al plurale, ma sei più te quello che ha avuto appunto qualcosa da condividere con il pubblico, che se ne è accorto prima, che lo ha valorizzato attraverso il mezzo che hai a disposizione, che è la radio. Quindi dopo una ricerca ricca attraverso tutti i social media possibili e immaginabili, perché lo so tu come fai, linki un artista che ha linkato un altro artista che poi rimanda a qualcun altro. Dedico una giornata alla settimana a questo tipo di bricolage. È Esatto. È digitale. Però scopri un sacco di cose. Ma è una cosa che ho imparato vivendo negli Stati Uniti e lavorando con quello che è stato forse uno dei miei maestri più importanti, il mio amico Ben Sidran. Ecco. Anzi, a proposito di Ben Sidran, vorrei anticipare che nella puntata di domani sera, a partire dalle 19:15, sempre qui su Radio 24, presenteremo in anteprima l'album nuovissimo di Ben. Devo dire, molto bello, forse l'album più politico realizzato da Ben, puoi anche immaginare perché. C'è proprio una canzone dedicata a Donald Trump e gliene dice di tutti i colori. Davvero? Sì. Si è preso questo rischio? Guarda, noi potremmo fare la versione italiana e dedicarla a qualsiasi tipo di politico in Italia, funzionerebbe comunque. Dai, immagino. Allora, parlavamo dei bravi maestri, quindi tu ti sei fatta un'idea. Beh sì, perché per essere un bravo maestro credo che occorra avere appunto un ideale di vita, qualcosa da insegnare, qualcosa da dire, altrimenti di cosa parliamo? Certamente per essere un bravo maestro devi aver avuto dei bravi maestri. Anche, no, anche, e poi no? Devi avere la capacità di insegnare, di trasmettere questo sapere, che può essere un sapere artistico, che può essere un sapere musicale, se vuoi, perché ci sono però tantissimi bravi maestri che, come dire, si mettono più da parte rispetto agli alunni a cui insegnano e che trasmettono il loro sapere solo per il piacere di farlo e non per quello di apparire. Quelli sono i bravi maestri. È vero. Un musicista che sul palco si circonda di giovani artisti, e ne abbiamo avuti di esempi, e che non vuole emergere rispetto a loro, ma che fa gruppo, ma che li mette... Guarda lui come fa. È il mio atteggiamento, è la mia mentalità. Ed è giusto. Mia mentalità. E infatti noi che cosa facciamo adesso? Presentiamo un giovanissimo. Questo proprio mi sa che non lo conosce nessuno, neanch'io. La verità, anche se ha fatto già degli album, si chiama Charlie Bernhoft e naturalmente dal nome si può capire che non è né americano né neozelandese. Questo è un signore europeo che arriva, mia cara Silvia, arriva dalla Norvegia. Oh, un norvegese. Ma perché noi presentiamo un norvegese? Ma visto che è già passato Natale e quindi Babbo Natale con la slitta è già passato. Perché tra l'altro vive a Brooklyn adesso, quindi ecco. È un norvegese che ha acquisito tutte le capacità dei grandi amici nostri che stanno a Brooklyn. E poi esce con, non è un suo nuovo album questo che stiamo presentando, ma lui è un'istituzione in Norvegia e non solo. È anche vinto, è stato anche nominato nel 2014 quando duetta con Jill Scott, con la nostra Jill Scott, e come best R&B album. È un uomo che sa fare tutto. Ecco perché lo presentiamo, un norvegese che ha nel DNA qualcosa di afroamericano. Assolutamente. No? Allora, ascoltiamo due brani, Streetlights e On Time, Charlie Bernhoft, al soundcheck di Radio 24. Auguri. Soundcheck. Il suono della musica. Si intitola Ceramic City Chronicles, l'album di questo signore chiamato Charlie Bernhoft, qui al soundcheck di Radio 24, brano intitolato Sunday, e qua viene fuori, sì, la vena anche soul classic di questo ragazzo, con tanto di arrangiamento, molto ben curato, questo signore che, come ci ha detto Silvia Barba, nostra ospite, nostra special guest oggi al soundcheck, ormai risiede da tempo a Brooklyn. Sì, allora, oggi parliamo di bravi maestri. Io ho avuto diverse lezioni importanti nella vita. Prima stavo citando Ben Sidran, approfittando anche del fatto che domani presentiamo in anteprima qui al Soundcheck il suo nuovo album, e da Ben ho imparato tante cose. Non solo nella musica, perché è un'enciclopedia vivente, visto che non solo è un veterano del jazz, ma ama tutta la musica. La cosa più importante che mi ha insegnato è l'umiltà e rispetto per la musica in generale, e poi avere le orecchie sempre aperte, quindi essere pronto a avere rispetto del passato, vivere il presente per essere proiettato nel futuro. Questo è proprio l'insegnamento più bello che mi ha dato Ben, dal quale poi ho appreso tante tecniche, dalla produzione discografica alla registrazione, una cosa che viene tramandata. Ben mi disse che aveva imparato a produrre i dischi dal suo grandissimo amico, che forse ancora oggi possiamo considerarlo l'inventore della figura del producer contemporaneo, che è Tommy Lipuma, che è stato tra l'altro festeggiato quest'anno per i suoi 80 anni. Ebbene, da Ben ho appreso queste cose, quindi ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti con lui quando ancora si registrava in analogico, e poi da lui ho imparato anche il linguaggio del computer, perché io non avevo un computer, lo comprai quando tornai in Italia e comprai proprio il primo Mac, mia cara Silvia. Quindi lui ti ha insegnato, oltre che forse lo eri già, a incuriosirti ancora di più per tutto quello che di nuovo, oltre che al passato, c'era già. Per cui incuriosire è anche una capacità dei bravi maestri, no? Assolutamente sì, ma ho imparato anche alcune cose in studio di registrazione, cioè a lasciare, per quanto tu possa entrare in studio con una composizione già bella finita, con gli arrangiamenti fatti, però a dare un margine di libertà creativa ai musicisti, quindi nell'interpretazione. Per cui, per esempio, io avevo già seguito le produzioni in Italia, ma avevo seguito le produzioni pop che si facevano in Italia, della musica leggera, no? Poi lì ho imparato la tecnica della produzione jazz applicata invece alla musica contemporanea, quindi questa cosa me la porto ancora dietro, e io anche nelle produzioni discografiche, quelle un po' più R&B, funk e pop, do grande spazio ai musicisti, cioè se il pianista si lascia andare e fa una cosa, io la tengo, cioè, è il classico, qui non si butta nulla. Infatti bisogna registra tutto, il mio motto, registra tutto che non butto niente. Ed è vero, anche a distanza di anni puoi recuperare delle cose, no? Certo. Anche, sai che bello scoprire un musicista di 10 anni fa cosa suonava, come suona adesso, quanto è migliorato. Quelle sono cose molto preziose da tenere. Questa è una cosa che noi dovremmo iniziare a pensare quando si registra un disco, ma anche quando si realizza una produzione televisiva o un programma radiofonico, no? Un po' per i contenuti. Questa produzione che noi facciamo oggi, quanto può essere importante domani? Può funzionare anche domani, fra un anno, due, tre, quattro, e lì alla fine vedi sulla lunga durata l'importanza di un album. Magari non ha un successo commerciale immediato, però diventa un masterpiece e un cult. E questo succede molto spesso nella musica. Sei diventato un bravo musica maestro. Jazz. Sono diventato? Parli come un bravo maestro. Ti ringrazio, Silvia. Allora, visto che anche tu sei una bella maestrina oggi, io vorrei che ci presentassi invece quest'altra produzione discografica. Anche questa è una novità. Si chiamano Leisure. Con due brani. Ho scelto due brani. Belli Deeper entrambi. E Hot Love. E anche questi signori non sono americani né inglesi. Da dove arrivano? Dalla Nuova Zelanda. Oh, e noi siamo molto attenti alla Nuova Zelanda. Grande e all'Australia. Realtà. Stiamo suonando tante cose. Grande realtà. Loro vengono direttamente da Auckland, è un collettivo formato da 5 musicisti che si è formato nel 2015, pensa però. L'ideatore di questo collettivo, che era Jaden Parks insieme a Jordan Arts, hanno deciso di riunirsi su una spiaggia, infatti si chiamano Leisure perché vogliono proprio esprimere quest'idea di relax, di tempo libero, di piacere nel fare la musica. Si sono riuniti su questa spiaggia e per una settimana hanno detto: vediamo cosa esce fuori da questa unione. Quello che noi facevamo da bambini, bonghetti e chitarra con l'anguria. Ma sai che bello? Loro ad Auckland mangiano l'anguria. E hanno fatto un grande disco, eccoli qui, Leisure con Deeper e Hot Love. Facciamo una pausa perché arriva anche l'informazione di Radio 24, poi tutti qui perché c'è Silvia Barba. A dopo. Che bello. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck, il suono della musica di Radio 24, nostra ospite qui nel Groove Master Studio, il ritorno, lo abbiamo detto, a volte ritornano, Silvia Barba. Ha ultimato Eccoci. Questa impresa cinematografica come producer. Esattamente che cosa fai tu? Assistente di produzione? Coordinatrice di produzione. Che significa? Qual è il tuo compito? Io metto in contatto tutti i reparti della produzione, dagli orari alle convocazioni, alle comunicazioni ufficiali, alle esigenze di ogni reparto, se i costumi hanno bisogno di qualcosa chiedono a me, se la produzione, i producer, quelli veri e propri produttori, chiedono a me di comunicare delle cose a tutti i lavoratori, e sono reperibile H24, ed è quella la cosa certo. più faticosa, e sono in connessione anche con il reparto, con il cast, quindi tutti gli attori che hanno bisogno di case, hotel, questo hotel non mi piace, fammi alloggiare da un'altra parte, il pick up, l'aereo, le prenotazioni. Anche tu, come mi ha detto tempo fa la mia amica, collega, formidabile cantante Maria Pia De Vito, mi ha detto: Gege, guarda, tu, io non so come fai perché tu sei multitasking. Allora, anche tu sei multitasking, fai diverse cose, no? Perché sei una brava vocalist, fai i concerti. Dovresti fare più dischi, però, Silvia. Ogni ne tanto sto preparando qualcosa. Fammi sapere se posso darti una mano. Magari. In qualche modo, volentieri. Allora, poi fai radio, poi scrivi, poi fai questo lavoro, le fotografie, fai queste cose per le produzioni cinematografiche. Hai avuto quindi anche tu, avendo varie competenze, vari maestri. Quali sono stati gli step importanti per diventare quello che sei oggi? Beh, devo dire... L'aiuto della mia famiglia è stato fondamentale. Musicalmente io sono cresciuta con i cantautori, quindi per imparare a scrivere delle cose, i riferimenti ad oggi sono ancora Lucio Dalla, Ivano Fossati, insomma i grandi cantautori italiani. Poi devo dire anche i musicisti con cui ho suonato, il discorso che facevi prima tu. Io ho avuto la fortuna, molto giovane, di collaborare con un bassista che era già in auge, perché comunque più grande di me, fusion, jazz, che è Pippo Matino. E con il... che salutiamo, approfitto per salutarlo. Sì. Pippo è meraviglioso musicista, ci ascolta sempre, creativo, fantastico. È un po' genio e sregolatezza, però da lui ho imparato a stare sul palco, perché comunque mi ha circondato sempre di situazioni molto piacevoli e anche stimolanti, per cui tutti i musicisti che poi hanno collaborato con il nostro Bass Voice Project a me hanno insegnato qualcosa, con la curiosità, con la capacità, con la tecnica, che io magari non possedevo, ma anche con il sorriso, perché scambiarsi un sorriso sul palco e gioire di stare a suonare per delle persone, secondo me è fondamentale. I musicisti che se la tirano un po' a me fanno un po' paura, perché non mi trasmettono quello che invece uno spettacolo live può dare. Ma sì, perché poi l'obiettivo è fare un grande show. Quello Play, è l'obiettivo. Stiamo giocando, stiamo suonando. Allora, secondo te un artista contemporaneo giovane, e tra l'altro vedo che sta vendendo un sacco di dischi, sta avendo un grande successo, un signore che si chiama Childish Gambino, che maestri ha avuto? Guarda, secondo me non si può prescindere da figure leggendarie ormai come James Brown, Prince o D'Angelo. Tu risenti un po' di queste influenze nella musica di Childish Gambino? Che cosa senti? Ne risento, e come. Innanzitutto è un tipo molto simpatico e anche multitasking, perché è un attore, un rapper, scrive per la televisione, è appunto è un artista completo. Poi è nato lo stesso giorno, lo stesso anno mio, 25 settembre 1983. Ah, sì, Ho scoperto questa... Lui è nato a Los Angeles. E lì proprio ti sei aperto il cuore. Lì ti sì, sei innamorata però... completamente. Siamo amici. Ho capito. Si chiama Donald Glover, in realtà. E... Figlio di Danny Glover? No, l'attore? No, non lo so. Stavo così. È noto per essere un rapper, però in questo album lui fa dichiaratamente un omaggio ai suoi maestri, che sono i Funkadelic, con un disco del 1971, Maggot Brain, e lui dichiara apertamente, riprendendo anche dei groove, delle linee melodiche e riportandole nelle sue canzoni, canta più che rappare. È un disco piacevolissimo e bellissimo, ascoltatelo. Childish Gambino, Redbone. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Sun Kissed, baciata dal sole, il nuovo album di Ashley Smith, cantante californiana, che qui ci fa ascoltare Best Friends, forse uno dei brani più carini di questa produzione, ispirato senz'altro al sole, al mare e alle spiagge brasiliane. Siamo qui nel Groovemaster Studio, oggi è tornata Silvia Barba, sono molto contento di ritrovarti, ti vedo carica, positiva come sempre, piena di iniziative in questo momento, e ripeto, spero di ascoltare prestissimo un tuo nuovo lavoro discografico. Ci sto lavorando, sarai il primo in anteprima ad ascoltare qualcosa. Bene, allora da Ashley Smith torniamo a parlare dei bravi maestri. La lezione di musica più importante, una delle più importanti che ho avuto nella mia carriera, mi è stata impartita tanti anni fa, era proprio all'inizio degli anni 90, quando ero negli Stati Uniti per la Go Jazz di Ben Sidran, da forse uno dei protagonisti della scena del jazz vocale di tutti i tempi, il grande maestro John Hendrix. Caspita. E John Hendrix, considerato il papà di tutti i vocalist contemporanei, contemporanei a cena in una steakhouse mi fece capire come stavano le cose. Perché io chiesi al maestro Hendrix: maestro, oggi abbiamo lavorato in studio, domani lei che cosa fa? Ha detto: sono libero, sono a casa. Ha detto: anch'io domani sono libero, posso raggiungerla a casa così mi fa una bella lezione? E lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ma che ti credi che io racconto a te tutti i miei segreti? E io ci rimasi anche un po' male, però poi capì il senso. Siccome lui notò che io c'ero rimasto male, mi ha detto: guarda Gege, tu, ehi Gege, no? Gege. Ha detto: guarda, tu, abbiamo fatto i concerti insieme, ci siamo esibiti insieme, stiamo facendo un disco insieme, il tuo lavoro è guarda quello che faccio, metabolizzalo in qualche modo e rendilo tuo. E questa è una grande lezione. È stato bravo. Un po' brusco nel dirlo, ma è stato bravo. Assolutamente brusco. È un po' il modo che poi, un po', come dire, Wynton Marsalis consiglia, no? Che è un altro grande maestro. Che gli vogliamo dire a Wynton? No, assolutamente nulla. C'è un aneddoto molto bello con Milton Jackson, il vibrafonista, poi lo raccontiamo. Che dice sempre: trova i migliori maestri, ascolta i pezzi più raffinati, cerca di emularli, apriti e sii sincero con la musica. È un po' quello che dice anche Joe Hendrix. Assolutamente, no? Sì, questa è una bellissima lezione che tra l'altro, secondo me, gli arrivò proprio dopo una bella bastonata. Immagino. Presa, perché quando era ragazzo Wynton Marsalis se la tirava un bel po', perché veniva da una famiglia di meravigliosi musicisti di New Orleans, era già preparatissimo, infatti ancora oggi è uno dei pochi che riesce a cimentarsi sia sul repertorio jazz, direttore del Lincoln Center, una bellissima big band, ma fa anche il concertista col suo strumento, con la sua tromba di repertorio sinfonico e classico, no? Quindi ci vuole una mentalità, insomma un bel cervello, e il suo segreto è proprio quello che fa practice every day, no? Lui studia, ha detto: secondo me, io perché studio tanto? Questo è quello che disse. Però ho preso una bella botta dal maestro Milton Jackson, perché salendo sul palco quando aveva 16 anni 17 anni con Milton Jackson, che lo invitò a fare un blues, Wynton Marsalis si lasciò andare ad un solo infinito, faceva chorus e chorus su questo blues, tantissime note, e alla fine dell'esibizione chiese a Milton Jackson: maestro, come sono andato? E Milton Jackson gli disse: guarda Wynton, come sei andato? Quello che ti posso dire è che hai fatto più note tu in un blues che io in tutta la mia carriera. Quindi non è sul numero di note, ma sulla qualità di quello che fai. Eccola qui, un'altra signora con una bella voce, anche lei giovanissima, e fra Ashley Smith e Lindsay Webster ci spostiamo in un versante tipicamente californiano, un po' non easy jazz, come si dice? Un po' smoothie? Smooth jazz. Back to Your Heart dall'album, anzi no, Back to Your Heart è il titolo dell'album nuovo, il brano è Fast and Slow. Lindsay Webster al soundcheck. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Beh, qui si sente la lezione che arriva direttamente da D'Angelo per questo ragazzo inglese che si chiama Aaron Taylor con Breakfast. Lo abbiamo presentato e ritorna qui Aaron Taylor proprio perché volevo sfoggiare il sound di questo ragazzo con Silvia Barba, che forse non lo aveva ancora catturato. È stata una piacevole scoperta. Perché lui stai sorridendo, sì. Silvia, quando tu sorridi c'è qualcosa di più. No, mi sono informata perché ad un primo ascolto ho detto: fermi tutti, ma lui chi è? Ecco. Cioè, è un incrocio tra Prince e D'Angelo. Quindi è partita l'indagine. È partita subito. Non ho approfondito spettro. Se fisicamente è come D'Angelo dei bei tempi, ma è un bel ragazzetto. Se ha gli addominali? Sì, però non ho approfondito, mi sono... Veramente sono stata una molto professionale e ho ascoltato la sua musica. Quindi hai visto solo il profilo Facebook, non hai indagato? No, non ci sono tantissime notizie. So che questo si ha fatto il modello di intimo di Postal Market. No, non ancora, not yet. Però canta, suona le tastiere, programma la drum machine, insomma arrangia e produce tutti i suoi lavori. Quanti anni ha? È molto giovane. Neanche 30, credo. Sì, forse, no, è giovanissimo, no? Vive a Londra, questo è il suo secondo EP che si chiama Better Days. È molto più positivo di D'Angelo, perché sfrutta, diciamo, quel suono, il falsetto, tutto, le chitarre come introduzione, i fiati e tutto, però da un punto di vista tematico nelle sue canzoni è più positivo. Better Days è un bel invito a giorni migliori. Ecco, come dice il nostro amico Francesco Tromba, anche Aaron Taylor fa parte, insomma, di quella categoria contemporanea di musicisti del nuovo millennio. Allora, i ragazzi del nuovo millennio utilizzano come maestro digitale internet. Esatto. Giusto? Sì. Allora, però io noto che c'è una bella differenza fra apprendere le nozioni da internet, te le devi andare a cercare, bisogna anche saper gestire molto bene, no? Gestire. Il modo in cui si deve apprendere, noi parliamo di musica, musica ma anche altro. Bisogna sapere se le fonti a cui abbiamo accesso sono veritiere, sono perché attendibili. Spesso ci sono delle notizie false e tendenziose. È sempre più difficile però ricercare, come dire, la biografia di questi artisti canonica a cui siamo abituati, nato a, vive a, a quest'età, perché molto spesso giocano anche un po' sulla doppia personalità, spesso pubblicano con dei nomi di fantasia o piuttosto dei dischi che è assolutamente individuabili solo in certe piattaforme, non in quelle ufficiali. Per quanto riguarda i maestri, io credo che i giovani di oggi abbiano anche l'esempio, visto la generazione poi degli anni 80, 90, anche dei cattivi maestri. Parliamo un po' dei cattivi maestri. Chi sono i cattivi maestri? Quelli che poi alla fine nella loro genialità vivono un po' sregolati e hanno delle abitudini non proprio sane. Sì, ma anche quelli che non supportano il tuo talento di base, anzi fanno di tutto per distruggerlo e per sopraffarti, come no? Perché quando scoprono che il maestro è meno bravo dell'allievo. Guarda, io ricordo sempre una cosa bellissima che mi ha raccontato il mio amico Max Ionata, che oggi è uno dei sassofonisti più quotati del nostro paese e del mondo. Quando era ragazzino e voleva studiare il suo strumento, il padre gli disse: guarda, se tu vuoi studiare, vuoi fare il sassofonista, ti mando a lezione, io dico sempre dal maestro, per dire un nome, Caprotti. Devi andare dal maestro Caprotti che ti fa l'audizione, il provino e ti dice. E il Max andò dal maestro Caprotti, che chiamò subito dopo il padre e disse: ma lascia stare, questo qua è meglio che gli fai fare un lavoro, che musicista, questo non ha talento. E Max Ionata è diventato Max Ionata. Quindi non è il solo, anche Nureyev diceva: il mio primo maestro mi giudicava un inetto negato alla danza. Nureyev, per dire. Allora, dopo Aaron Taylor direi di andare ad ascoltare, a scoprire altri due giovani protagonisti della scena contemporanea. Si tratta di Kron, che ha un nome da videogioco, e poi J. Cole. Il brano si intitola Dawn and False Prophets. Noi ve li presentiamo perché sono artisti che probabilmente diranno la loro. Il sound è proprio quello tipico del contemporary R&B, potrebbe essere anche considerato un po' noioso. Infatti, a me, sai che cosa c'è, Silvia? Quando partono i brani mi intrigano molto. Dopo un po', se hanno delle stesure lunghe sopra i 3 minuti, iniziano ad annoiarmi perché gli arrangiamenti poi non reggono la durata, giusto? È giusto. È giusto. Allora andiamo a scoprire Kron e J. Cole al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E hai fatto bene a tornare qui nel Groovemaster Studio, mia cara Silvia, perché dovevi fare un upgrade di musica. Sei stata assente per un bel po' di settimane, quindi preparati, perché adesso, appena il programma termina, perché siamo quasi per andare in pubblicità e poi all'informazione di Radio 24, quindi siamo in chiusura, ma torniamo domani alle 21.15. Ci sarai anche domani? 19.15. Alle 19.15, perdone, perché alle 21.15 invece il mercoledì siamo su Rai 5 con variazioni. Quante cose tema. Fate, guarda, veramente. Multitasking, lo dicevamo. Dobbiamo fare. Ma questo è un paese difficile. Ma è bello, dai, che bisogna vi divertite. Lavorare. Tocca lavorare. Tocca lavorare. Allora, Cato con In My Reach, che musicista, polistrumentista, cantante, se la suona se la canta, e poi è uno dei miei batteristi preferiti ormai da diverso tempo. Se vi dovesse capitare di vedere lui Cato anche su YouTube dietro ai tamburi, resterete a bocca aperta. Quindi lo dico ai giovani batteristi: attenzione a Luis Cato, ma anche come musicista non è niente male, suona di tutto, chitarra, tastiere, trombone, fortissimo, fortissimo, e sto aspettando il nuovo album. Invece è uscito un album nuovo, ne abbiamo già parlato, che è quello del pianista cubano Roberto Fonseca, con il quale noi vi salutiamo per mandarvi a cena in allegria. Totale allegria, yes. Cosa che facciamo anche noi, Silvia, andiamo a cena? Certo, grazie. Andiamo a cena e poi ti voglio anche domani. Va bene, con perché piacere. Presentiamo due album, quello di Ben Sidran e quello di un altro batterista strepitoso che è Nate Smith, e questa è un'anteprima che è arrivata direttamente dalla Rope Dope di New York. Ci sarò. A tutti voi buona serata e buona musica con Roberto Fonseca da Gigi Telesforo e Silvia Barba.